Secondo me il segnale non è quello suo, magari della creazione, però arriva benissimo. E Antò, una cornuta me l'ho costruita io, ho tagliata per la 27 MHz, la sto usando con Saturn, ecco. Sì, ti copio, si S9 qua, 9, 9, 10. Va bene per i DX questa qua, gli sto dando 3 watt. È buono. Sì, ce l'ho messa su un traliccio di 4 metri. La grazia lui ce l'ho collegata al 6009. Va bene, sto facendo una saldatura. Sentiamo dopo. Ciao Antonio, ciao Chris. Ciao. E via, ciao. C'era l'amico da Giovanni. Avanti, chi è entrato Giovanni? Senti, tu mi senti? Io ti sento. Stavo salutando l'amico, non so chi era. Uno era Gavino, l'altro è Bach. Cristian e l'altro è coso, Gianni da Sorso. Ciao, sto appena accendo, non so chi si fosse. E cappa. Sì. Avanti Cristian, ci sei? Gianni da Sorso. Gianni da Sorso, non lo sento. No, non stanno parlando. E a Cristian dove si sentire bene. Se entra in quella zona proprio. In quella zona vicino a Temi. Mi arrivavano. Bene, sì. Sì. Esatto, sono tutti lì in zona. Oi. Stasera diciamo che ci siamo riposati, arriva e ho gribato. Che sta? Allora chi c'è tutto quanto suonato? Cioè, abbiamo smontato due palchi ad Alghero. Una dei punti più gazebbi. È muto. Il giocatore ha dall'otto di sera non aveva più caramanco di Drodia e ne hanno dimontato una cosa, cioè cribati proprio, che poi c'era un furgone solo, c'era perché avevamo solo un furgone e abbiamo aspettato, ci siamo lato qua e fa da torna la riera e noi eravamo montando ai punti, cioè cribati proprio, diciamo io te. È pesante come lavoro, tocca. Ti capisco. Ci vuole anche un fisico. Non tanto. Pensa tu, il tavolo, il ferro. Cioè. Cos'è? Cioè. Prima abbiamo, cioè, erano tutti così, erano un 8x8, poi che stavamo montando un altro 8x8, poi un 6x8 di palco, capito? Che cosa mi auguro, è stressante quella roba lì, così. Beh, a tu, io mi sto mettendo su un po' d'acqua, mi voglio fare un po' di pasta ragù. Dammi 2 minuti, appena la metto a bollire e sto rientrando. Eia, e quando dovevo fare il 12x12? Catta il buccio di guro che ti fermo. Ok, dai, ciao. Chi è entrato tu? È entrato Giovanni. Tu lo dovresti sentire per forza perché è lì. No, sono stato per la casa minimo. Ma forte lo sentivo. Ma forte? È vicino a casa tua, lì. È la cosa magia molto vicino a casa, allora. Sono finito che io lo protetto, allora. E fa du. Sono stato che aveva tiro nel gabbiotto giù a casa sua, ma è una piccola piccolina. No, lui già c'ha l'antenna. Da esce. Ma sapevo l'antenna io, ma adesso me l'ho già messo lì. Tu già mi senti bene con la zona, vero? Tu sei una bomba qui, benissimo. No. tu sei una bomba qua, alla grande. figurati. Sarà la GPS Sirio, c'ho sul tetto. Quindi non mi difendo bene. Con la tre radiale, 50. Già non credo che esce un po', sì. No, ma questo come se non va bene con la terra. Io avevo una piccolina, una radiale, una piccolina. Era un po' 3 mesi, capito, grande. Era una piccola, piccola. Era una terra piccolino. Quando 4 mesi di palo messo, certo. Si sente qualcosa la mia antenna. Cosa c'hai tu di antenna? No, ma era un stanzino, faceva casa sua, quella del megabiotto, capito? Ah, la cosa, la Grand Play. Esatto, quella lì è sul tetto. Sì, non è male, no? Quella lì, ma che basta a me. Era 4 metri dal tetto, da me lì. Era che, la che alta mia. No, non è male, non la Grand Play, no? Guarda che negli anni che furono, non è che c'era tutte queste antenne. Chi si era, amico? Era la Grand Play, che cosa, cioè, la Grand Play veniva molto usata anche negli anni che furono, e puliscia la gente, lo sentivano dappertutto. Io quella che sto detto, passava 4 metri e mezzo, 4 metri e mezzo, più o meno la testa di casa mia, ma non è che sia molto alta, Campa. Della Sirio mi pare che è quella, o no? O di un'altra marca? Questa è della Sirio, è un numero che trovo bene, questo non lo trovo bene, sto dicendo a te. Sì, ma si usavano molto le Sirio. Ma le Sirio, c'erano le LEM, quelle originali erano la LEM. Ti ricordi? Si usava molto, si usava. Ma tu sto dire che mi ha capito, è pure la verità. Non ho... Ormai sono fuori dal campo di... da quei campi di parecchi anni. Ma anni fa si usava la cosa, cioè, le antenne che c'è, cioè, non è che tutti avevano la 58, no? Te lo possono dire anche i vecchi CB. Le prime che compravano erano le Grand Play, le prime che compravano. Non tutti avevano... Cioè anche, mi troppo dire anche Gianni quando è iniziata quella Grand Play. E pompava, No, a me è già passata parte quella lì a voglia, già ce n'è anche... in abbondanza. No. I primi CB te lo possono dire tranquillamente. Le prime antenne che hanno comparato, non so. Perché allora non tutti potevano permettersi la 58, perché costava, erano le Grand Play. Ma eccomi. Se ti dico, ho un paio di manto, vai a una casetta, questa parte, adesso me le riassemblo, e se non voglio, adesso c'è un troppo. Ok. Gioca sto bambino. Sì, ha detto che fai, che riprendi tra un po'. Guarda, io vedo la mia figlia cieca anche, che più o meno la resta del tuo figlio, più o meno, dai. Questo fai da lì io, quello di sera. Cristian, era butto, me l'hai sempre, sì. Dimmi. L'appunto come la mia, ce l'hai sempre. No, la sto guardando adesso, se ne tratta. Ci sta la gattina sopra e me l'ha massacrata. La sto guardando. Come un ragazzino sopra? Sono rimasti 3 fotelli, Sperto, Airbag, non so tutto fatto, non so, tutto. Posso fatto a zero. Ma già se la prende. Ma se non siete annuta, sono io sotto. Ma sei cutto, Zé? Sì, c'è un ragazzino sopra, stavo lavorando, cazzo, mi ha massacrato tutta la carcassa. C'è sul muso, mi ha spostato. Con la moto? Via Petronica. Ma io ci ho cascato con la moto del cutto. No, una macchina c'è cutto, una macchina a alta velocità. Non a fare i gazzardi, si vuole una fare, ma te ne compri un'altra. Beh, l'istante per fare un'altra, se no c'è la piedi. Campagna, non te lo puoi di andare a piedi, no? È un casino, eh. Cazzo, la vedo a me chicciato, un gabbo l'abbia chicciato. Questo brutto mesioso, un gas. Ma non le piaceva la macchina che andava ancora, no? vabbè, tanto mi, ormai è una macchina antica preferita. Dai, non la piango, guarda. Sì, macchine così buone, lascia perdere. Oh, non ne so più costruendo macchine così buone. Avasso, pieni di elettronica, problemi, e boh. Una macchina d'epoca, questo prima. Wow, se punto vanno, sempre bene vanno. Guarda, io avevo guidato già, cioè, poi chissà Citroen, che a me non piace. Si è comprato un amico mio, cioè gliel'ha comprata il suocero, quella C3. Cioè, no, non mi piace pure a Edo. Qualcuno dice è meglio di un'altra via sul sedile, per me è un comodo, la mia è migliore. Poi? Ma la tua che è? 5 forte? 5 a 5. Buono. Sto facendo il sedile di punto io anche, a casa, cosa hai fatto? Cosa c'è il sedile di punto? 3 sedili, 9 nuove. Ah, vero? E la tua è la mia macchina, la tua, la mia. La tua macchina, la tua macchina è tutta. La mia è... verdolina, la mia è verdolina, però la mia è 5 forte. E adesso per la fine. Allora, fino sull'altra frequenza. Ah, a vedere. Sono trovato parecchio, ovviamente. Ci siamo. Ci sono trattati che sta per chiamare, dai. Guarda la frequenza. 4,4600. Cioè non si intende nulla che sono portati, era giù la Cardusano. Allora, anche lui, c'aveva Carlo nell'altra linea, stava facendo vedere il frigo del peschereggio, bello. Non lo posso immaginare, sembrava artigiano, ha fatto bene. Scusa, anche non ti ho copiato bene, cosa hai detto? Ho detto che se è bravo l'ha fatto bene. Bene, no, non lavora bene. Certo. Oh, c'erano questi pulpi dentro, vedi che belli. Ho detto, ma che tu stai andando a pescare il dedetto? Ah, ma per fare un buon raggio, funzionando. Ma dimmi tu cosa portate, dai. Fasino. C'è un coso che non funzionava. Eccolo qua, ora funziona. Tu canto strano, tutto a contusoglio. Non ha funzionato, da voi no. Ma non hai capito?